questo mi divora per la propria cena. Ce n'è d'invidia, quella vera la trovi di sera, che gira in queste situazioni poco garbe, ci rimette le gambe subito dopo sclera. Qualcuno non mi può vedere, qualcuno mi ama, non voglio nessuno dei due, voglio una trama da seguire. Dopo che la scrivo con le dita, vendo la mia vita e poi me ne ritorno a casa. Dimmi cosa trovi dietro un monitor, cercare un monito, girare con il sangue alcolico nel vomito. O forse ti realizzi, perché quando pizzi pizzi, quindi forse è meglio smetterla di alzare il gomito. Non mi dire certe frasi ad effetto, perché l'affetto lo sento dentro i monitor. Tu vedi tutto perfetto, lo so, io non risolvo con l'anonimo. Lo vedi che non parlo ma penso, credo che posso farlo diverso. Più penso che ti trovo più scovo le frasi che mi hai detto senza senso. Lo vedi che non parlo ma penso, credo che posso farlo diverso. Più penso che ti trovo più scovo le frasi che mi hai detto senza senso. Ogni volta che mi giro non vedo nessuno, solo qualcuno che mi stecca del fumo. Invecchia, non può più capire cosa mi rilassa, il tempo mi ammazza, ora mi consumo. Ho cacciato roba palate per serate, fumato in balia di queste giornate colorate che mi date. Solo pioggia e negatività, la mia credibilità la sparate. Avanzate lentamente in questo buio che mi lega a te, pensa un'altra, fumo il tantra già dalle tre. Ed ogni volta che ricordi fanno passi indietro, fumo nel vetro e lieto quello che rimane a me. Non vorrei pensare a niente di infatti, vorrei pesare come pesano sti passi. Batti pugni in aria, la malaria che vi arriva c'ha l'odore di sativa, ma non vi fa uscire pazzi. Lo vedi che non parlo ma penso, credo che posso farlo diverso. Più penso che ti trovo più scovo le frasi che mi hai detto senza senso. Lo vedi che non parlo ma penso, credo che posso farlo diverso. Più penso che ti trovo più scovo le frasi che mi hai detto senza senso. Lo vedi che non parlo ma penso, credo che posso farlo diverso. Più penso che ti trovo più scovo le frasi che mi hai detto senza senso. Lo vedi che non parlo ma penso, credo che posso farlo diverso. Più penso che ti trovo più scovo le frasi che mi hai detto senza senso. Oh snap, amo l'app, non è che devo...